Queste riflessioni sono sorte in una riunione dove più di 200 giovani cantavano un inno le cui parole erano queste. Somigliare a te, Gesù, è il mio desiderio. Pensare, agire, amare più come te. Parole stupende, niente da dire, ma, spesso, nel pronunciarle diamo un significato diverso a certe parole. O più volentieri, vediamo solo un aspetto della verità. E proprio a causa del pericolo di vedere solo un aspetto della verità, prendo in esame l'altro aspetto, meno consueto e meno attraente. Somigliare a te, Gesù. Stupendo desiderio, perché Gesù ha fatto del continuo la volontà di Dio. E chi, in questo, non vuole assomigliare a Gesù? Inoltre Gesù ha fatto sempre del bene, ha aiutato i poveri, ha fatto dei miracoli, ha sempre detto la verità. Chi non vorrebbe terminare la sua vita in questo modo? Ecco perché si canta a voce spiegata assomigliare a te, Gesù. Eppure vi è anche l'altro aspetto della verità, quell'aspetto descritto anche dal profeta Isaia. Chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli è venuto su davanti a lui, come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, era disprezzato. E noi non ne facemmo stima alcuna. Is 53:1-3. Dunque, nonostante abbia fatto tanto bene, e proprio perché ha sempre detto la verità, Gesù è stato disprezzato e rigettato anche dai suoi contemporanei e concittadini. Chi di noi è pronto a vivere in queste condizioni? Chi di noi è pronto ad essere deriso, schermito dai suoi amici e conoscenti? Volere essere come Gesù significa, come ha scritto l'apostolo Pietro, soffrire ingiustamente, 1 Pietro 2:19. E chi è pronto a soffrire per una ragione giusta? Facile da dirsi, ma molto difficile da farsi. Più volte ho sentito credenti dire: io sopporto tutto, ma questo poi noi. Io non ho fatto nulla di male, e non mi va che si parli male di me. O di essere trattato in questo modo. Dobbiamo ammetterlo, soffrire ingiustamente è una delle chiamate più difficili del cristiano. Prendiamo un altro esempio. Un inno molto conosciuto in molti ambienti evangelici è «Grande tua fedeltà». Com'è bello cantare e pensare alla fedeltà di Dio. Dato che Dio è fedele, noi facciamo molto più volentieri la sua volontà, siamo disposti anche a soffrire qualche cosa per il regno di Cristo. Il sapere di essere ricompensati ci stimola a correre nei sentieri di Dio. Eppure, quando penso alla fedeltà di Dio, ho nel cuore anche un certo timore, che chiamerei quel santo timore, il quale deve albergare nell'animo di ogni figlio di Dio. Perché? Perché ho presente del continuo le parole pronunciate dal condottiero Giosuè al popolo di Israele prima di morire. Or ecco, io me ne vado oggi per la via di tutto il mondo. Riconoscete dunque con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima che non è caduta a terra una sola di tutte le buone parole che l'Eterno, il vostro Dio, ha pronunciato nei vostri confronti. Si sono tutte avverate per voi, neppure una è caduta a terra. E avverrà che, come tutte le buone cose che l'Eterno, il vostro Dio, vi aveva promesso, si sono avverate per voi. Così l'Eterno farà venire su di voi tutte le calamità, finché vi abbia sterminati da questo buon paese che il vostro Dio l'Eterno vi ha dato. Se trasgredite il patto che l'Eterno, il vostro Dio, vi ha comandato, e andate a servire altri dei e vi prostrate davanti a loro, allora l'Utual ira del Tricumo Eterno si accenderà contro di voi, e voi scomparirete presto dal buon paese che egli vi ha dato. Giosuè 23:1-4:16. Giosuè ha fatto presente al popolo la fedeltà di Dio e, ricordando loro che tutto ciò che di bene era stato promesso dall'Eterno si era avverato. Però, ha aggiunto, ricordatevi, che anche tutto il male prospettato vi si avvererà. In definitiva, Giosuè ha fatto presente l'altro aspetto della verità della fedeltà di Dio: se è fedele nelle buone promesse, lo è anche nelle cattive. Così, se è vero che a chi pone fede in Lui ha promesso del bene in questa vita e in quella futura, è altresì altrettanto sicuro che Dio non impedisce all'incredulo e a chi rifiuta il suo amore di andare verso la perdizione eterna. E per i credenti, come è vero che alcuni riceveranno delle corone, è altresì vero che alcuni figli di Dio saranno appena salvati e coperti di vergogna. 1 GV 2.8. Quanto è preziosa la fedeltà di Dio? Ma quanto timore produce? Per qualche ragione forse a noi sconosciuta, molti credenti vivono un cristianesimo irreale. Ne è una prova ciò che ho letto da qualche parte. Nascendo non abbiamo alcuna reputazione, ma crescendo ci affatichiamo per acquistarne una nel più breve tempo possibile. Siamo affamati di riconoscimenti e siamo assetati di approvazioni. Consideriamo che essere servi sia degradante e al di sotto della nostra dignità. E nostra convinzione d'essere venuti al mondo per essere serviti e non per servire. Per questo affrontiamo le difficoltà con l'intento di superarle e salire nella scala sociale finché non arriviamo ad essere leader, capi, ufficiali, amministratori. Anche nel servizio cristiano la maggior parte di noi ambisce essere qualcuno. Sono pochi quelli che amano fare il duro lavoro di evangelizzazione di casa in casa, avere contatti personali, dedicarsi alla predicazione all'aperto, eccetera. Sebbene siamo degli esseri comuni, abbiamo al nostro riguardo un concetto molto elevato e pensiamo di essere semidei, così cerchiamo di allontanare a gomitate chiunque di ostacolo alla nostra avanzata. Non ci passa neppure per la mente la possibilità che Dio ci chiami a rinunziare al nostro modo di vivere, affinché possiamo liberamente condividere con altri il nostro Salvatore. Non possiamo comprendere come Dio possa guidarci in un campo di servizio oscuro, solitario, spiacevole. Siamo profondamente convinti che per il popolo di Dio tutto debba andar bene e tutto deve essere buono, e questa mentalità influenza le nostre azioni. Non siamo molto pronti di fronte al pericolo e alla morte. Ci teniamo caramente le nostre vite. Siamo decisi a vincere il diavolo mediante il sangue dell'agnello e con la nostra fedele testimonianza, ma non pronti a suggellare questa testimonianza anche a costo della nostra stessa vita. Lo spirito di conservazione prevale in noi su ogni cosa. Quanto alla morte della croce, crediamo che sia abbastanza logico che il Signore l'abbia affrontata per noi, ma per qualche motivo non possiamo collegarla a noi stessi. Dobbiamo vivere, è vero, e abbiamo imparato a vivere con il mondo senza attirarci il suo odio. E è bello essere un cristiano importante nella società. Crediamo teoricamente che ognuno di noi dovrebbe sapere rinunziare a se stesso e prendere ogni giorno la sua croce per seguire Cristo, ma questo non dovrebbe assolutamente significare di essere coinvolti in una vita di sofferenze e sacrifici. Sono parole che fanno riflettere. Un altro inno dice: «Son si felice che Gesù mi ama». Beh, essere amati è una delle esperienze più belle della vita. Tanto è vero che una delle esperienze più belle dell'esistenza umana, fare sesso, viene soprannominata far l'amore, sebbene per la maggioranza delle persone resti sempre solo fare sesso. Proprio per questo, quando si pensa all'amore, si pensa alla cosa più piacevole che possa esistere. Prova ne è che quando una cosa non è piacevole si dubita molto, e forse moltissimo, che provenga da un atto di amore. Lo dice anche la parola di Dio. L'amore non fa nessun male al prossimo. RM 13:10. Dunque, tutto quello che fa male sembra non provenire da un atto d'amore. Questo è il pensiero dei più. Ma anche questa verità presenta un secondo aspetto. Lo troviamo scritto nella lettera agli Ebrei. Ma Mirella C. Avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perderti d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. 12.6. Dunque, il Dio Trino che è amore, anzi proprio perché è amore, corregge i suoi figli, il che vuol dire farli soffrire, e addirittura flagella chi gradisce. Un discorso, questo, non usuale e neppure gradevole. Ma è l'altro aspetto dell'amore. Quell'amore che soffre. Soffre perché vuole il bene e la gioia del prossimo che vede testardamente incamminato su di una strada diretta a renderlo infelice. Quell'amore che soffre perché partecipa alla sofferenza altrui. Quell'amore che soffre perché rinuncia a se stesso a favore dell'altro. Siamo felici perché Gesù ci ama, ma a volte lo siamo molto meno. Quando, come risposta al suo amore, seguiamo le sue orme nella sofferenza. Se non vi è luce senza ombra, se non vi è dolce senza l'amaro, allora non vi sono gioie nell'amore se non ci sono anche pene e dolori. Anzi, si può dire che non si ama veramente se contemporaneamente non si provano gioie e soddisfazioni unite alla sofferenza. Un amore a senso unico come potrebbe essere quello degli innamorati che vivono fuori dalla realtà, non è degno di essere chiamato amore. Del resto Gesù, l'emblema dell'amore, è colui che della sofferenza ha fatto il proprio cibo quotidiano. Vi è un altro inno che si canta con molta foga, dal titolo A te la gloria. Tra coloro che hanno posto una fede sincera in Cristo, chi non desidera dare gloria a Dio? Anzi, si può dire che chi non desidera glorificare Dio con tutto il suo cuore, con tutta la sua vita, può dubitare della propria fede. Si desidera glorificare Dio come ha fatto Daniele nella fossa dei leoni o come i suoi tre amici nella fornace ardente. Si desidera glorificare Dio come Giuseppe che è stato vincitore su varie tentazioni o come l'apostolo Paolo nell'aver consacrato totalmente la vita per la predicazione dell'Evangelo. Ma vi sono altri modi per glorificare Dio, uno dei quelli è l'essere messi da parte, ricevere l'umiliazione o morire. Nell'elenco degli eroi della fede che si trova nella lettera agli Ebrei, troviamo citati Enoch, Noè, Abramo, Sara, Giuseppe, Mosè e altri ancora, tutte persone che sono lodati per le vittorie ottenute nelle prove, ma ve ne sono altri che pur non essendo nominati hanno glorificato Dio con una vita diversa. Infatti leggiamo di loro, altri invece furono distesi sulla ruota e martoriati, altri ancora subirono schermi e flagelli, e anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, tentati, morirono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelli di pecora e di capra. Bisognosi, afflitti, maltrattati, il mondo non era degno di loro, erranti per deserti e monti, in spelonche e grotte della terra. Ebrei 11:3-5:38. Questo è l'altro aspetto della verità. Non tutti sono capaci di dare gloria a Dio mediante la sofferenza e l'umiliazione, questo va tenuto in considerazione soprattutto quando si vuole glorificare Dio. Noi cantiamo a te la gloria, ma se poco dopo ci capita di essere umiliati per il nome di Cristo, ecco che subito facciamo tutto il possibile per recuperare l'onore anziché rallegrarci ubbidendo all'ordine di Gesù, Matteo 5:12. Molte sono le situazioni nelle quali per glorificare Dio occorre essere confusi, SL 115:1, non notati o messi da parte. Gesù dichiarò che nessuno tra i nati di donna è stato più grande di Giovanni, il Battista, in riferimento al suo ministero e non alle opere, ma Giovanni disse che per lui era necessario diminuire per lasciare che fosse Gesù a crescere. Questa è la difficile gloria da dare a Dio. Come in ogni campo, anche nelle chiese ci sono mode che ne hanno caratterizzato i vari momenti. Ci sono stati periodi nei quali è stato messo l'accento sull'evangelizzazione, in altri sull'importanza della santificazione, in altri si è battuto molto sull'apologetica, ma nel passaggio dal XX secolo al XXI l'accento è messo sulla lode e sull'adorazione, anche perché per molti questo è un segno sicuro di spiritualità. Senza togliere nulla alla necessità di adorare e lodare Dio, anche questo aspetto della vita cristiana presenta il suo lato rovescio. Adorare Dio per le sue promesse, perché è grande, perché ci ama, perché è pietoso, è quasi istintivo, molto meno istintivo. Tuttavia è adorarlo quando tutto si farebbe all'infuori di questo. Giobbe, per esempio, venne privato in un sol giorno dei figli e dei beni, e poi, come se ciò non bastasse, anche della salute. Ma nonostante tutto, nel suo profondo dolore, allora Giobbe si alzò, si stracciò il suo mantello e si rase il capo. Poi cadde a terra e adorò, GB 1:20, così dichiara la scrittura. Giobbe adorò. Facile a dirsi, ma quanti credenti sanno adorare sinceramente Dio in situazioni più o meno drammatiche? Anziché lamentarsi, chiedere subito la liberazione in preghiera, o non perdere quella poca fede che hanno, non è possibile adorare Dio se non lo si riconosce in ogni situazione della vita, sia felice che infelice, sia nella gioia sia nel dolore. Nessuno può adorare Dio se Egli è solo il Dio dei piaceri e delle soddisfazioni. Adorare Dio anche, o perché si soffre, è possibile solo a colui che lo riconosce come l'autore di ogni piccola circostanza positiva o negativa della vita. Si può adorare Dio in qualsiasi situazione solo se a Lui si attribuisce il bene e il male. E che dire di Mosè, al quale l'Eterno si rivelò sul monte Sinai come colui che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non lascia il colpevole intunito, e per questo Mosè si affrettò a prostrarsi fino a terra e adorò. Es 34, 5 a 8. Ancora una volta troviamo un uomo che si prostra e adora. Adora un Dio che dice di essere buono e compassionevole, ma altresì intransigente e che non lo lascia impunito chi è colpevole. Mosè non adora soltanto un Dio buono, non lo adora perché anche il colpevole riceve la sua giusta retribuzione. Questo è il Dio che Mosè ha adorato. Chi vuole adorare la divinità dei cristiani e degli ebrei deve adorare non solo la sua bontà, ma anche il suo odio verso tutto ciò che è male e coloro che amano il male. Il Dio dei cristiani e degli ebrei deve essere adorato come Lui desidera essere adorato. Diversamente si adora o si prega un Dio sconosciuto, un Dio inesistente, un Dio fatto a immagine e somiglianza dell'uomo corrotto. Questo aspetto della lode è solo per uomini maturi. Non sarà mai sufficiente ricordare che la Bibbia è una raccolta di libri il più giovane dei quali ha 2000 anni, per cui è normale che il linguaggio non sia sempre compreso subito. E proprio perché ci è questo divario tra gli scrittori biblici e noi, tante espressioni o affermazioni possono essere fraintese. Una testimonianza dell'Apostolo Paolo, spesso citata e anche spesso fraintesa, è «Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica», volendo dire con questo che il credente è in grado di compiere cose incredibili. Che il credente possa compiere cose impossibili umanamente parlando, è vero, ma sostenendo che possa ogni cosa, si passano i limiti del lecito, anche perché Paolo con questa sua affermazione non voleva dire di essere in grado di compiere tutto quello che voleva. Infatti, il contesto del suo discorso lo mette in evidenza. Or mi sono grandemente rallegrato nel Signore, perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma ve ne mancava l'opportunità. Non lo dico perché sia nel bisogno, poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato, come anche vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e ad aver fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Tuttavia avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. IFL 4.1014. Paolo testimonia di essersi trovato in difficoltà finanziarie, ma contemporaneamente afferma di aver imparato a vivere e convivere in tutte le situazioni, sia nell'abbondanza sia nella penuria. Quindi, il posso ogni cosa è riferito sia alla possibilità di compiere cose straordinarie, come il compiere miracoli, ma soprattutto all'altro aspetto della verità, saper vivere adeguatamente, sia nel benessere, sia nella necessità. E se è difficile compiere cose straordinarie, non lo è di meno aver fame e vivere temperatamente e onestamente nella penuria. Forse qualcuno è in grado di vivere nel benessere, ma quanti sono coloro che sanno vivere glorificando Dio nelle ristrettezze? Così, ancora una volta ci rendiamo conto quanto sia necessario vedere la verità sotto due aspetti. Non tanto per saperne di più, ma perché ogni verità che non ha il suo contrario o due aspetti complementari, certamente ci porta qualche errore. Per il nostro bene, sforziamoci di vedere sempre i due aspetti della verità. Luglio 2009. Ellero.